Sei in onda, puoi parlare. Sì. Di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio. Siamo qui in via Cetalpino, abbiamo appena assistito all'arresto, anzi è in corso l'arresto di due persone, si stanno stringendo le manette in questo momento. Tra l'altra cosa, le due persone sono ferite, per cui forse sarebbe anche il caso che arrivasse un'ambulanza. Qui la situazione è comunque appunto quella che abbiamo raccontato fino adesso. La polizia ha scavalcato un muro laterale di questo edificio che era stato occupato un'ora fa circa. Guarda, abbiamo appena fatto una corrispondenza dal tetto e i compagni ci hanno chiesto di fare un appello ancora una volta per far convergere un presidio di vigilanza o comunque di solidarietà. Sì, anche perché vi dico, io sono proprio di fronte a questi due occupanti che hanno appena arrestato e stanno ammettendo davanti a me, appunto, buttavano sangue fino a un attimo fa. Insomma, la situazione è veramente antipatica e quindi è veramente complicata. Secondo me, diciamo, se le intenzioni sono quelle della prima entrata, ecco, questa è una valutazione che vi faccio io, per quanto sono rimasti dentro l'edificio, la situazione si potrebbe fare piuttosto complicata, visto le maniere un po' rudi con cui hanno proceduto fino adesso. Questo è quanto, io volevo riportare anche un po' anche in solidarietà, insomma, in sollievo di questi compagni che in questo momento purtroppo si stanno avviando a essere, questi occupanti, a essere, credo, portati in questura. Certamente, guarda, non siamo riusciti, però non sono riusciti i compagni neanche a darci le generalità per magari comunque avvisare gli amici o i parenti laddove fossero all'ascolto. E in ogni caso sarebbe pure forse il momento di contattare gli avvocati o quantomeno mettere in piedi uno straccio di servizio legale, ecco. Ripetiamo ancora una volta quello che ci chiedevano dal tetto, e cioè quello di far convergere più gente possibile. Davanti a me stanno arrivando altre due camionette dei carabinieri, altri tre blindati dei carabinieri, per cui blindati fanno un totale 8 circa, quindi con relativi equipaggi, quindi naturalmente, come dire, la situazione si va facendo sempre più tesa. Io adesso non so se guarda, noi stavamo aspettando ci chiamassero anche dal tetto, laddove, quando entra la polizia, per comunque stare in contatto e riuscire a dare, per quanto possa servire, un po' di notizie su quello che accadeva all'interno. Io continuo a vedere polizia dall'esterno che si agita intorno all'edificio, che spinge, sbatte, apre portoni. Ecco, in questo momento hanno aperto un altro portone, quello delle scale. Sì, perché praticamente erano entrati prima nell'appartamento. Dal mio punto di vista adesso vedo che hanno appena aperto l'ingresso delle scale, vedo dei caschi che si agitano, sono piuttosto lontano, i carabinieri mi hanno allontanato da davanti all'edificio. Però questo è l'edificio, è una palazzina quadrata che ha il corpo scale ottagonale, un po' in fuori rispetto all'edificio. Questo ve lo dico perché l'ingresso alle scale presuppone probabilmente l'arrivo sul tetto, no? Diciamo, va da sé, insomma, come ragionamento. Va bene, senti, ci vogliamo riaggiornare? Sì. O vuoi aggiungere qualcosa? No, va benissimo. Io dico semplicemente questo, è un appello, faccio appello a tutti, i compagni, le persone, i sinceri democratici, perlomeno a voler venire qui tra Piazza Galeno, anzi soprattutto a Piazza Galeno, ma anche dall'altro lato verso il Policlinico, anche soltanto per sincerarsi che tutto questo avvenga con un minimo di rispetto della integrità fisica delle persone che stanno vivendo questa situazione. Tutto qua. Va bene, ci riaggiorniamo, speriamo con notizie migliori di queste. Va bene, ciao.